Italia in controluce. Buon pomeriggio, questa è la seconda edizione di Italia in controluce. Oggi è il 19 settembre, il programma di Radio 24 che indaga sui fatti di cronaca ma racconta anche la politica italiana, nazionale, locale, il costume, lo spettacolo. Vi parla Daniele Biacchessi. Come funziona un teatro in tempo di crisi, un tempo di ristrettezze economiche? Qualcuno ha pensato di occupare un teatro per far emergere i problemi della cultura italiana e dei pesantissimi tagli ai finanziamenti. Francesco Marinelli racconta a Italia in controluce la storia del Teatro Valle di Roma, occupato da mesi. Siamo qua in cerca di un autore. Un autore? Che autore? Uno qualunque, signore. Ma qua non c'è nessun autore, perché non abbiamo in prova nessuna commedia nuova. Tanto meglio allora, signore, potremmo essere noi la loro commedia nuova. Già, ma se non c'è l'autore... Dai sei personaggi in cerca d'autore ai 50 occupanti che riscoprono un bene comune, il Teatro Valle di Roma. È il 14 giugno, il giorno dopo, quando le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo entrano al Teatro Valle. Il 14 giugno il gruppo di scappati di casa si è insediato all'interno dello storico teatro romano che vide i natali dei pirandellianissimi sei personaggi. I sedicenti artisti hanno assunto la difesa del suddetto bene comune e chiedono con veemenza che il teatro si trasformi in un centro di drammaturgia nazionale. Il Teatro Valle è stato occupato per evitare la privatizzazione di un simbolo della cultura italiana. Un popolo di artisti, tecnici e amanti del palcoscenico che hanno proclamato un autogoverno. Sono Danilo Nigrelli, sono un attore, un regista. Siamo qua perché intanto perché questo teatro appunto stava cambiando prospettiva, aveva un'intenzione di farlo diventare un luogo privato, quando invece questo teatro è un bene comune, come stiamo ripetendo da mesi, un bene non solo della cittadinanza di Roma, ma veramente del popolo italiano, senza retorica. Questo è un teatro storico dove sono successe cose molto importanti, viene citato sempre, non a caso, la prima dei sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello. In questa sala creò una confusione non da poco, con la sala che per metà era d'accordo con lui e per metà no. Per cui è sempre stata una sala importante, è stata di innovazione che ha portato nuove cose. Qui è stato rappresentato Beckett, Ionesco per le prime volte in Italia, insomma sono passate tutte le compagnie, ci sono delle locandine nel foyer dove sono dei nomi, ci sono tutti i nomi del teatro italiano, da Gassman, Randone, tutti, Anna Maria Guarnieri. E il teatro è aperto 24 ore su 24, come succede nei teatri europei, il sabato e la domenica dove si fanno delle visite guidate, perché questo ha una storia, qui ha suonato Mozart. Nonostante la nostra diversità stiamo cercando di creare un filo comune tra di noi, perché non consideriamo questo teatro nostro, non l'abbiamo mai considerato nostro, degli occupanti. È bellissimo vedere come cambia il tipo di pubblico di età da a seconda dell'artista che viene. È stato bellissimo per esempio la domenica con Giovanotti, che sono venuti qui un sacco di ragazzi, ragazzini anche giovani, e lui è stato molto intelligente di spiegare a loro, che non erano abituati a stare in luoghi come questi, che cos'era e perché noi eravamo qua. Vi ammiro, ho letto delle vostre imprese sui giornali, e subito mi sono sentito coinvolto come cittadino. Tutto nasce con la soppressione dell'ETI, l'ente teatrale italiano, nel maggio dello scorso anno. Una protesta contro i tagli alla cultura, una protesta per rivendicare diritti sociali da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo. Io sono un tecnico e lavoro qui da tanti anni, lavoro in questo teatro e ero un dipendente dell'ente teatrale italiano che lo gestiva. E l'ente teatrale italiano è stato annullato con la finanziaria dell'anno scorso in mezzo agli enti inutili, come se l'ente nazionale per il teatro di un paese importante come l'Italia fosse una cosa inutile. L'ente nazionale per il teatro è l'ente che si occupa dell'implementazione di tutto il settore teatrale, anche la danza e tutto il resto, i rapporti con l'estero, i progetti. Questo ente si portava appresso tre teatri in gestione, tra cui il Teatro Valle. La stagione successiva, cioè 2010-2011, doveva essere comunque fatta. È stata gestita direttamente dal Ministero dei Beni Culturali. Noi non possiamo più svolgere le nostre funzioni. Io sono un tecnico da 25 anni e andrò a fare qualcosa che non c'entrerà mai più niente con il teatro. doveva essere soltanto un'azione dimostrativa. Nessuno poteva immaginare di dare vita a tutto questo. Oltre agli appuntamenti serali, quotidiani, si sono organizzati in questi mesi corsi di formazione, stage e laboratori. Tutti accorrono al Teatro Valle. Teatro Valle occupato, Teatro Valle buongiorno, occupato, ci dica. Buongiorno, sono Ugo, come posso aiutarla? Certo, signora. Gli spettacoli sono lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, ore 21, signora, domenica, ore 19. Grazie. Sabato? No, signora, sabato è la serata a scuola. Si legge nel foyer del teatro. Dove c'è da mangiare per 50, si può vivere anche in 100, se si armonizzano i bisogni. A seguire questi ragazzi c'è anche Antonio, colonna storica del Valle. Io sono Antonio, sono il custode del teatro da 35 anni a questa parte, quindi la mia vita praticamente è svolta tutta in questo luogo. Aprivo alle 8 il teatro e c'erano i servizi delle pulizie, gli uffici e tutto il resto, la biglietteria che andava tutto in funzione. Devo dire che funzionava benissimo prima della chiusura, della soppressione dell'Eti, andava bene. Veniva pubblico, era seguito, quindi eravamo 30 dipendenti e dopo un anno di trattative i sindacati si è venuto a un accordo che tutti i dipendenti ex Eti venivano assorbiti dal Ministero dei Beni Culturali. Ciò che non siamo il Valle per occuparci di ciò che è nostro. Il teatro è una cosa di tutti, il teatro è della città, appartiene a tutti, per cui è un diritto della popolazione vivere nel teatro. Siamo lavoratrici e lavoratori dello spettacolo, cinema. Una macchina del sapere organizzata, che ogni giorno si riunisce per mettere a punto le ragioni e le proposte per il futuro del teatro. Lorena, tecnico elettronico, fa parte del comitato organizzatore. Per quanto riguarda tutto il lavoro sullo statuto per la fondazione, ci siamo divisi il lavoro in gruppi, quindi un gruppo che sta studiando in modo più specifico la produzione, un gruppo che sta studiando in modo più specifico la direzione artistica, e questo include anche i rapporti con l'estero, un gruppo che sta studiando il bilancio, cosa fondamentale, che vorrebbe essere un bilancio insomma un po' rivisto e corretto rispetto alle spese un po' sconsiderate cui siamo abituati. Un discorso molto importante per noi è quello sulla formazione dei giovani, formazione del pubblico, che si sta rivelando una cosa importantissima e fondamentale. La fondazione si basa sull'idea che il teatro, nonché la cultura, in questo caso il teatro Valle, siano un bene comune, quindi l'idea base principale del bene comune è di una condivisione di una proprietà che non è né statale né privata, ma che è dei cittadini, quindi è di tutti e di nessuno contemporaneamente. Quindi responsabilizzazione dell'individuo, partecipazione attiva, diretta e fisica, c'è l'aiuto fondamentale e indispensabile di Rodotà e di Mattei, che ci stanno aiutando proprio a scrivere materialmente lo statuto. Un'occupazione è una forma di lotta, non è un modello di sviluppo e di gestione. Noi dobbiamo andare a forme di lotta anche forti. Vedete, col vento non si ragiona. Il vento quando si alza e non ce n'è per nessuno. Un popolo di artisti che ha deciso di tirar giù la maschera e fare un passo indietro dalla prima linea del palcoscenico. Nessun protagonista assoluto, via gli egocentrismi. Ci sono danzatori, ci sono scrittori, sceneggiatori, registi, abbiamo qualche produttore indipendente. Ognuno cerca di essere utile per questa causa. Tutti guardiamo su quell'indirizzo lì, tutti guardiamo veramente sul bene comune. Cerchiamo di fare tutto il nostro meglio. Abbiamo dato la possibilità di esibirsi a tutti gli artisti che ci hanno fatto richiesta. Questo è il Teatro Valle Occupato. Venite tutti al Valle, teatro occupato, teatro gratis, teatro aperto a tutti. All'uscita ci si imbatte in un cartello, una dichiarazione d'amore per il Teatro Valle e la cultura italiana. Il teatro è un sacrificio d'amore che dura tutta la vita. Caro Valle, ti scrivo. E allora come si fa a sopportare i tagli alla cultura? Non vogliono solo chiudere i teatri, ma le teste. Forse bisognerebbe spiegare a questa gente che cos'è la cultura. Noi siamo l'esempio, voi siete l'esempio. Più teatri ci sono e meglio è. Nel mondo ci sono tanti re, ma un Michelangelo solo. L'arte è l'arte. Ogni uomo. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Vi ricordo, su Facebook trovate la pagina e il gruppo di questo programma, anche su Twitter, siamo anche con il blog su radio24.it. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24 con la pillola di Italia in Controluce.